lasciami e tanto pago. Tornami una volta in te stesso, in tuo soccorso pronta sempre la mano del pescatore. Cor ti salvo dall'onde, credimi, non avrai. Si stanca il cielo d'assister chi l'insulta. E il mio soccorso e non ha la pietà. Negar la morte, ma che vive il morente. Aminta, oddio, e lasciami, non ti aver, lasciami ragione. Non può sperar, senza restea non posso, non deggio viver più. Morir voglio, dove me gagli è morto. Attendi, ascolta, che attendi, che ascoltare, e non si trova più conforto per me. Per me nel mondo non m'è più che sperare. Servarmi in vita, impedirmi la morte, e quanto lo pretende, e non presumi. Ferma! Senti, felice, o stelle, o nome, Megacle, principessa. Ingrato, e intanto mode dunque mi fuggi, che per esserti unita, se io m'affretto a morire, tu torni in vita. Vedi a quale segno è giunta, adorata Restea, la mia sventura. Io non posso morire, trovo impedite tutte le vie per cui si passa di te. Ah, oh, quel pietosa madre!